Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ritroviamo Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Oh, ho detto ritroviamo perché parliamo di qualcosa che abbiamo già discusso più volte, perché come dire, certe condizioni diciamo imbarazzanti a volte ritornano, come la vicenda che torniamo a raccontare oggi. Sì Francesco, non pensavamo di dover tornare a raccontare una vicenda di cui ci siamo occupati soprattutto un paio d'anni fa, seguendo veramente decine e decine di casi, e invece vediamo che comunque alcune tipologie, alcuni metodi, possiamo chiamarli alcuni, per virgolette, raggiri, proseguono senza sosta e creano e fanno in questo caso a colpire delle vittime che sono degli imprenditori, soprattutto imprenditori artigiani. Ecco, noi abbiamo seguito un caso di recente di un'agenzia di viaggi di Saonara che, come appunto era successo nei casi che abbiamo seguito alcuni anni fa con Avron, anche in questo caso questa agenzia aveva ricevuto un modulo che sembrava molto simile ai moduli che invia la Camera di Commercio, nel quale veniva semplicemente chiesto, venivano chieste le conferme di alcuni dati legati alla propria attività. Quindi praticamente era un modulo da compilare, almeno così sembrava, e da rinviare al mittente con i propri dati, e chiaramente con una propria firma alla fine del modulo. In realtà quel modulo nasconde un'insidia scritta chiaramente in piccolissimo. Appunto si va a firmare un modulo per avere diritto a della pubblicità, tra parentesi, su dei siti praticamente semisconosciuti. In questo caso per l'agenzia di viaggi sono stati chiesti 1.400 euro. Chiaramente quando si manda indietro questo modulo non si sa che alla fine si è mandato indietro un contratto per della pubblicità che alla fine non si vuole, non è richiesta, e quindi ci si accorge solo quando praticamente arriva la fattura da pagare. Anche in questo caso all'agenzia di viaggio è arrivata la fattura, anzi è arrivato direttamente il recupero crediti per chiedere appunto questo pagamento di 1.400 euro, al che la titolare dell'agenzia chiaramente si è rivolta a noi e abbiamo fatto intervenire immediatamente il nostro ufficio legale. Il problema legato però a questo tipo di raggiro è che solitamente queste ditte che mandano i moduli hanno tutte sede all'estero. Noi ci ricordiamo che anche per quanto riguarda le altre situazioni che avevamo seguito appunto alcuni anni fa, abbiamo dovuto intanto intercettare e cercare di capire dove avessero sede queste ditte. Sì. C'era una ditta che ce l'aveva in Germania, una ditta che ce l'aveva a Bratislava, e quindi insomma è anche molto difficile poi contattarli. In ogni caso, come era successo appunto con la ditta Avron, che aveva veramente fatto strage di artigiani, diciamo tra virgolette strage ovviamente, ma aveva raggirato moltissimi moltissimi imprenditori non solo della nostra zona ma in tutta Italia, ecco, anche in questo caso siamo andati appunto a scrivere a questa società che si chiama New Media Service, e quindi evidentemente sta operando nella zona del Veneto, e in questa parte in Germania, quindi siamo andati a chiedere chiaramente l'annullamento del contratto, perché è un contratto ottenuto contro la volontà appunto del contraente. Solitamente ci fermiamo qua, nel senso che poi non viene chiesto nient'altro all'imprenditore artigiano, quindi si annulla il contratto. Staremo a vedere anche se anche questa New Media Service si comporterà alla stessa maniera e se quindi bloccherà l'intervento del recupero crediti. Abbiamo parlato di questa vicenda ricordando che l'abbiamo già affrontata in altre occasioni, ma abbiamo parlato soprattutto per mettere in guardia, soprattutto questa documentazione arriva a imprenditori artigiani, li mettiamo in guardia, non firmate, non compilate dei moduli nei quali vengono richiesti i dati, che non siete sicuri appunto che questi moduli siano veramente della Camera di Commercio, del Registro delle Imprese. Leggete molto attentamente questo tipo di comunicazioni, perché molto spesso si nascondono delle insidie, dei raggiri come in questo caso, e poi non è così semplice uscirne quando appunto viene affidato poi al recupero crediti la richiesta appunto del pagamento, come in questo caso. Beh, è sempre importante ricordare e ribadire queste cose, l'abbiamo fatto anche oggi grazie proprio all'Associazione Difesa Consumatori, che ha il sito che è questo, associazionedifesaconsumatori.it. Grazie quindi a Gianluca Codognato, ci ritroviamo tra qualche giorno. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.